Il compito che Paolo ricevette da Dio fu quello di trasmettere un messaggio comprensibile sia ai giudei sia ai gentili, due culture diverse e per molti aspetti opposte. Uno dei termini che Paolo ha usato più frequentemente per trasmettere il grande messaggio del Vangelo è la parola salvezza. Ecco, tre versetti in merito. 1. Io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza. Di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. Romani 1:16. 2. In lui anche voi, dopo aver udita la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza, e aver creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa, Efesini 1:13. 3. Fratelli, figli della progenie di Abramo, e quelli fra di voi che temono Dio, a voi è stata mandata la parola di questa salvezza, Atti 13:26. Quando Paolo si riferiva alla salvezza intendeva una salvezza completa dell'essere umano, anima, corpo, spirito. E non solo. Dell'apostolo la salvezza era riferita a tre tempi, cioè al passato, al presente e al futuro. Possiamo notare la salvezza al passato nell'affermazione di Paolo in Romani 8:24. Del che noi siamo stati salvati in speranza. Or la speranza che si vede non è speranza, poiché ciò che uno vede come può sperarlo ancora? Notiamo la salvezza al presente nell'affermazione di Paolo, in 1 Timoteo 2:4. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e che vengano alla conoscenza della verità. Infine troviamo la salvezza espressa al futuro nella lettera ai Romani 5:10. Infatti, se mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del suo figlio, molto più ora che siamo stati riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. Questo aspetto non è esclusivo dell'apostolo Paolo, perché anche l'apostolo Giovanni vede una salvezza espressa in tre tempi. Leggiamo della salvezza come evento passato nella prima lettera di Giovanni 3:14. Noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama il proprio fratello rimane nella morte. Riguardo alla salvezza come evento presente, leggiamo in 1 Giovanni 5:13. Ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del Figlio di Dio affinché sappiate che avete la vita eterna e affinché continuiate a credere nel nome del Figlio di Dio. Infine, troviamo dell'aspetto futuro della salvezza in Giovanni 14:19. Ancora un po' di tempo il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, poiché io vivo anche voi vivrete. Consideriamo i tre aspetti della salvezza. La salvezza del passato riposa sull'opera di Cristo. Questo aspetto così elementare ma indispensabile non deve mai essere dimenticato. L'apostolo Paolo usa tre espressioni metaforiche per esprimere come Dio abbia salvato l'uomo e da ricordare che la metafora è una figura per la quale si trasporta un vocabolo da un senso proprio a un senso figurato, ma che tuttavia mantiene la realtà espressa nel senso proprio. Secondo l'apostolo Paolo, Dio ha salvato l'uomo riconciliandolo, Romani 5:10, giustificandolo, Romani 3:24, e adottandolo, Colossesi 1:14. La riconciliazione è un termine che esprime un'immagine tratta dalla sfera delle relazioni personali. Si tratta della situazione di una persona lontana che è restituita al favore e alla cerchia familiare. L'esempio più classico lo troviamo nella parabola del figlio prodigo che, allontanatosi dalla casa paterna, ritorna in comunione con il padre. La giustificazione è un'immagine tratta dal tribunale e la situazione di un uomo colpevole che viene assolto. L'esempio più conosciuto è certamente la parabola del pubblicano e del fariseo che vanno nel tempio a pregare. Il pubblicano, nel riconoscere il proprio errore, viene reso giusto, mentre il fariseo, credendosi giusto, rimane colpevole. La redenzione è l'immagine tratta dal mercato degli schiavi e la situazione di un uomo reso schiavo che viene rimandato libero. Possiamo vedere questa realtà nei miracoli di guarigione, dove un uomo viene liberato dalla schiavitù di un handicapitolo. Un handicap condiziona o rende schiavo chi ne è in possesso, mentre la sua assenza rende libero. Questo è il messaggio del Vangelo, messaggio che ha il suo centro l'opera di Cristo compiuta sulla croce. Per l'Apostolo Paolo anche il messaggio della croce ha più aspetti. La morte sostitutoria di Cristo sulla croce è innanzitutto la prova suprema dell'amore di Dio. Ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi, Romani 5, 8. La morte sulla croce di Gesù Cristo è anche l'azione per cui Dio toglie la maledizione che pesa sui peccatori. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno. Galati 3:13. Inoltre, Dio si è servito della morte di Cristo sulla croce per avere la vittoria sopra le demoniache potenze del nemico. Avendo quindi spogliato le potestà e i principati, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro in lui. Colossesi 2:15. Infine, la morte sulla croce di Cristo è stato il mezzo di espiazione dei peccati, un mezzo di propiziazione, cioè un mezzo per rendere una persona gradita a Dio. Gesù è l'espiazione per i nostri peccati, e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. 1 Giovanni 2, 2. La salvezza del presente non è un'esperienza statica, ma dinamica. La salvezza del presente riposa su quella passata. Se non vi è una salvezza passata, non esiste una salvezza presente. Se non vi è una salvezza presente, non vi è salvezza passata. La salvezza del presente è una salvezza quotidiana, ed essa è descritta in vari modi. Essa viene descritta come essere nel regno di Dio e del suo amato Figlio, Colossesi 1:13, come vivere nella grazia di Dio, Romani 5:1, come vivere in novità di vita, Romani 6:4. Con questa ultima espressione, forse Paolo ha dato la migliore definizione di cosa significa essere salvati al presente. La salvezza presente implica una vita diversa da quella vissuta prima della conversione. La vita cristiana è una vita condotta da Cristo, è un non vivere affinché Cristo viva in me. In definitiva, la vita cristiana non è altro che lasciarsi guidare dalla volontà di Cristo, così come è espressa nella sua parola, e messa in pratica mediante la potenza dello Spirito Santo. Questa salvezza del presente coinvolge tutto il nostro essere, corpo, anima e spirito. Il credente che vive da salvato realizza una normale salute fisica, ha un animo sereno che gli permette, come l'Apostolo Pietro, di dormire tranquillo anche il giorno prima della propria esecuzione a morte. Il salvato, ubbidendo alla volontà di Dio, evita il male, evita gli eccessi. Perciò non è troppo giusto né eccessivamente saggio, non è troppo malvagio e non è troppo stolto. Ecclesiaste 7:16-17. Vivere per lo Spirito Santo significa compiere la volontà di Dio senza cadere nel legalismo. Significa ubbidire allo Spirito per il quale la legge è stata data, e non fermarsi al significato letterale di questa che uccide. Questa è la grande salvezza che dovrebbe realizzare ogni giorno un figlio di Dio. E di questa salvezza che l'Apostolo Paolo si riferiva quando scrisse la sua prima lettera a Timoteo. Non trascurare il dono che è in te, che ti è stato dato per profezia, con l'imposizione delle mani da parte del collegio degli anziani. Adoperati per queste cose e dedicati ad esse interamente, affinché il tuo progresso sia manifesto a tutti. Abbi cura di te stesso e dell'insegnamento, persevera in queste cose, perché facendo così salverai te stesso e coloro che ti ascoltano. 1 Timoteo 4:14-16. La salvezza alla quale si riferisce Paolo è proprio la possibilità di vivere senza essere condizionati dalla corruzione del peccato, per poter vivere nella libertà dei figli di Dio. Paolo ordina a Timoteo non tanto di preoccuparsi di evitare la corruzione del peccato, ma di vivere per lo Spirito Santo, di occuparsi e preoccuparsi del regno di Dio, perché una volta dedito ad esso, lui e coloro che ascoltano eviteranno di peccare, cioè si salveranno da certi errori e peccati. La salvezza futura è la beata speranza che accompagna e dovrebbe accompagnare ogni figlio di Dio nel corso della sua esistenza terrena. Senza questa attesa, la salvezza di Dio non sarebbe completa e perciò non sarebbe una grande salvezza. Che tipo di salvezza può aspettarsi il figlio di Dio? Dopo che è stato salvato dalla perdizione passando dalla morte alla vita, dopo che è fuggito dalla corruzione del peccato. Paolo la esprime molto chiaramente nella lettera ai Romani. Ma Dio manifesta il suo amore verso di noi, in questo che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Molto più dunque, essendo ora giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Infatti, se mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del suo figlio, molto più ora che siamo stati riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Romani 5, 8, 10. Secondo la parola di Dio, vi è un giorno nel quale tutti gli uomini saranno giudicati per ciò che hanno detto e fatto. Poiché nessuno è perfetto, inevitabilmente tutti dobbiamo essere giudicati e condannati. Mentre gli increduli sono condannati subito e subiranno un giudizio pubblico in cielo, coloro che hanno posto fede nel sacrificio di Cristo saranno salvati, cioè eviteranno il giudizio e la giusta ira di Dio, perché si sono riconosciuti colpevoli e sono stati già giudicati e giustificati. Chi non è stato riconciliato con Dio mediante Cristo, chi non è in Cristo, non potrà essere con Cristo. Questa salvezza futura non è solo spirituale, ma comprende tutto il nostro essere, anima, spirito e corpo. In effetti il credente non aspetta solo di essere riconosciuto giusto, ma attende anche un corpo nuovo, un corpo glorioso simile a quello di Cristo risorto. Una salvezza senza la redenzione del corpo non sarebbe una grande salvezza, e così quando ciò che è corruttibile avrà rivestito l'incorruttibilità, quando ciò che è mortale avrà rivestito l'immortalità, allora sarà adempiuta la parola che fu scritta. La morte è stata inghiottita nella vittoria. La salvezza del credente sarà una grande salvezza, una salvezza completa, che gli permetterà di essere sempre alla presenza di Cristo, liberato dalla presenza e dalla conseguenza del peccato. Essere sempre con Cristo è la grande attesa di chi ha sperimentato la grande salvezza. Dicembre 2004. Ellero.